Sono ormai più di 10 mesi di processo, iniziato lo scorso 21 marzo e a mezzogiorno di oggi è iniziato, circa mezzogiorno, è iniziato l'esame di Gilberto Cavallini, l'ex militante dei NAR, che è stato accusato di concorso nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 con le 3 persone che sono già state condannate come esecutori materiali, che sono sempre appartenenti ai nuclei armati rivoluzionari, sono Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Diciamo che insomma è importante perché si inizia a entrare nel pieno delle accuse e delle contestazioni e di conseguenza anche della difesa di Cavallini, che oltre a questo processo insomma ha un percorso giudiziario molto lungo. È stato condannato all'ergastolo, è in regime di semilibertà a Terni, e tra i reati sono che gli sono stati riconosciuti c'è associazione sovversiva, terrorismo, banda armata, resistenza a pubblico ufficiale, calunnia, favoreggiamento, omicidio, sequestro di persone, insomma diversi altri. È un neofascista che proviene da un percorso lungo, lui nasce nel 1952 e ha un percorso lungo di militanza nell'estrema destra, passando inizialmente in età adolescenziale dal Movimento Sociale e la giovane Italia, e fino al suo primo arresto nell'aprile del 76 lui stamattina in aula ha detto di essere sempre stato vicino appunto al MSI, per cui a un partito inserito nella compagine parlamentare e non appartenente alla galassia dell'eversione dell'extraparlamentarismo di destra. Il primo fatto grave si diceva nell'aprile del 76, quando a Milano, che è la città in cui lui nasce, partecipa ad altri con altri neofascisti all'omicidio di un militante del comitato antifascista del capoluogo lombardo, che si chiamava Gaetano Amoroso. Viene arrestato, dopodiché evade durante una traduzione tra il carcere di San Benedetto del Tronto e Brindisi e inizia una latitanza. Stamattina ha dato una versione leggermente diversa rispetto a quello che aveva dato in passato, sia per quanto riguarda l'evasione che per quanto riguarda la latitanza, sostanzialmente chiama in causa persone di cui non vuole rivelare l'identità, nonostante i reati che si potessero contestare a queste persone sono ampiamente prescritti. Lui dice sostanzialmente: fate presto a dire che un reato è prescritto, se io coinvolgo qualcuno lo faccio finire in un tritacarne come quello in cui sono finito io. E qui ci ricolleghiamo a quello che ha detto prima di iniziare a rispondere alle domande della procura e poi delle parti civili. La settimana prossima probabilmente si continuerà con le parti civili e poi risponderà alle domande dei suoi avvocati difensori. Lui ha fatto una dichiarazione spontanea, ha chiesto di parlare prima appunto di rispondere, che è stato un violentissimo attacco all'associazione vittime della strage di Bologna. Sostanzialmente ha accusato colui che è stato il presidente fino al 1996, l'anno della sua morte, che era Torquato Secci, di aver detto: se anche voi non siete colpevoli la strage fascista fanno bene a condannarvi, cosa che Secci, essendo morto da insomma, più di 20 anni, non può né confermare né smentire. Ha sostanzialmente insinuato che l'associazione vittime sia una sorta di braccio armato, sia stata e sia ancora una sorta di braccio armato del Partito Comunista, che oggi ricordiamo non esiste più da un pezzo, così potente da poter condizionare le scelte della magistratura e del pubblico ministero, che ha chiesto il rinvio a giudizio di Cavallini, e del GIP, che poi lo ha rinviato materialmente a giudizio, incapace di sottrarsi insomma a questo tipo di pressioni. E questo insomma già da stamattina sui giornali lo si legge, ha detto che denuncerà l'associazione vittime e gli estensori della cosiddetta scheda Cavallini, che è una scheda biografica con tutto, che contiene tutta una serie di elementi sulla sua carriera criminale e di terrorista politico. Una scheda che lui definisce piena non di errori ma di falsità, e appunto ha minacciato di querelare per calunnia l'associazione vittime. Però c'è un elemento di queste dichiarazioni spontanee che lo mette in relazione a quanto avvenuto ieri, cioè alla conferenza stampa a cui hanno partecipato gli ex militanti di terza posizione, Roberto Fiore, oggi segretario di Forza Nuova, e Gabriele Adinolfi. E dove sta il punto di congiunzione? Il punto di congiunzione sta nell'attribuzione ancora una volta della presunta responsabilità della strage, già dimostrata come inesistente in tante sedi di indagine e di giudizio, della cosiddetta pista palestinese, e in particolare la volontà di attribuire all'estrema destra la responsabilità della strage, perché si vuole coprire per ragioni di Stato l'esistenza del cosiddetto Lodo Moro, e in particolare il Partito Comunista, queste sono ancora parole di Cavallini, vuole smarcarsi dalla rappresaglia dei palestinesi con i quali condivideva la matrice filosovietica. Insomma, diciamo, anche questa è in estrema sintesi la sostanza della giornata, e una sostanza che appunto ricollega direttamente a quello detto ieri da Fiore e da Adinolfi, in cui adombrano questa nuova pista, chiamiamola nuova pista neotrotskista, attribuendo alla sinistra sostanzialmente la responsabilità della strage, cosa che è stata già dimostrata insussistente, ma tante indagini poi iniziate subito nelle settimane successive alla strage hanno raccontato che i palestinesi, i libici, tutte la questione maltese, Gheddafi, cioè tutte queste vicende poi non hanno avuto alcun ruolo all'interno di del piano che è stato organizzato e poi attuato appunto quasi 39 anni fa a Bologna. Sì, allora diciamo hai già fatto una sintesi molto esaustiva. Comunque appunto sì, c'è stata queste dichiarazioni ieri di Fiore e di Adinolfi. Tra l'altro Fiore stesso era stato sentito nel processo il 31 ottobre del 2018, anche in quel caso ci eravamo sentiti appunto per un aggiornamento. Diciamo che sì, continua una negazione totale comunque delle responsabilità da parte degli ex NAR. Sì, esatto, continua la negazione totale, continuano a sostenere di essere stati scelti come pretesto, capro espiatorio di quello che è avvenuto, continuano a dirsi contrari allo stragismo, così come continuano a dirsi lontani da qualsiasi sospetto di appartenenza o di vicinanza a strutture dello Stato, servizi segreti. Si è arrivati oggi in aula dei paradossi a sostenere insomma che Franco Freda, la cui responsabilità è stata riconosciuta per la strage di Piazza Fontana, non apparteneva ad Ordine Nuovo, oppure che Pierluigi Concutelli, l'assassino del giudice Occorsio, era una persona assolutamente candida e trasparente, e c'è un dettaglio insomma che la dice lunga. Stamattina si è detto che è un'invenzione che Concutelli abbia partecipato a delle rappresaglie anche mortali nei confronti di militanti baschi dell'ETA. Di fatto, andandosi a leggere le sentenze Occorsio, invece viene proprio raccontato che attraverso Stefano Delle Chiaie di Avanguardia Nazionale questo è accaduto, e come, attraverso armi che partivano dagli Stati Uniti peraltro. E diciamo un'ultima domanda, insomma, al di là delle continue negazioni che comunque insomma ci si attendeva, diciamo, anche dalla deposizione di oggi di Cavallini, però visto che appunto, come dicevi, sono passati 10 mesi dall'inizio di questo processo, che comunque avevamo detto sarebbe stato un processo molto importante, se dovessimo fare un bilancio di come sono andati questi 10 mesi, che bilancio sarebbe? Ma è un bilancio che ci racconta una storia, che è quella di Cavallini insieme ai suoi ex camerati dei NAR, quelli poi condannati per la strage, che ci racconta una storia di assoluta organicità, cioè si muovevano insieme, decidevano insieme, strutturavano un'operatività insieme. Poi gli arresti o gli esiti diversi delle latitanti li portano ad allontanarsi, per cui comunque è una storia che viene coniugata in parallelo. Vengono respinte ovviamente dall'imputato qualsiasi, già lo accennavo prima, qualsiasi presenza diversa da quella dello spontaneismo armato. A fine 2018 una memoria presa dalle parti civili ci racconta invece che un'officina in cui di Milano, l'officina Lucchi, in cui Cavallini aveva portato la sua auto, era riconducibile attraverso legami parentali al noto servizio, che era insomma un apparato occulto dello Stato, che era quello che si doveva occupare degli affari sporchi.